Wonder what after man prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Bit of big happy love for the betcha I chill. Come 19:01, 29 marzo, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Dalla Salica a Pinclo per un'oretta di musica insieme. Scaletta ricchissima, andremo in giro per il mondo oggi, forse anche un po' più del solito, e quindi dai, possiamo anche iniziare, che dici? Io direi di iniziare. Cominciamo proprio alla grande, un bel ritorno, un album, devo dire che aspetto abbastanza con piacere. Zola Jesus, Lost. E questa era Zola Jesus, un singolo che diciamo preannuncia l'album che uscirà il 20 maggio, se non ricordo maggio, male, sì, sì, per la Sacred Bones, e si intitolerà Arcon. Allora, intanto a me Zola Jesus piace un sacco, anche perché è un artista un po', diciamo, poco prevedibile. Lo dice tutto attaccato tipo codice fisico, quindi secondo me non l'hanno capito che come si chiama Zola Jesus. Zola, okay. Zola. In realtà si chiama Nika Rosa Danilova, ma noi la chiamiamo Zola come preferisce essere chiamata. No, vabbè, se l'è scelto il nome d'arte, ha detto: ah, i miei riferimenti, Emil Zola, ah, Gesù Zola, Cristo, Zola, essere, esatto. Gesù Cristo, cioè, quindi peraltro vogliamo. Due così, due, due figure così, diciamo, poco importanti. Tutti due uomini, però. Lo so. Vabbè, la perdoniamo, dai. Intanto la perdoniamo anche perché è un artista molto interessante, a me piace molto, diciamo, è sempre abbastanza imprevedibile, non tutte le cose che ha fatto mi piacciono, questo sarà il suo sesto album, tra l'altro, quindi, insomma, abbastanza consolidata la sua carriera. E questo pezzo che si intitola Lost, molto interessante quello che dice, racconta appunto che in realtà è quello che pensa, in questo momento è un po' tutto perso, un po' tutte le persone sono perse le speranze per il futuro, è perso il nostro contatto con il pianeta, è il nostro rapporto anche tra di noi, un po' tutti un po' flagellante, non fare questi gesti che le nostre ascoltatrici non vedono, ma mi fanno ridere poi a me e pensano che sono fuori, e quindi in qualche modo ma lo sono, e quindi in qualche modo in realtà quello che dovremmo fare è cercare di, almeno in questo pezzo lei cerca di riprovare a trovare le coordinate per cominciare un percorso nuovo, sia rispetto a noi stessi sia rispetto al nostro rapporto con la natura. Ora, siccome, come avete anche sentito dalle sonorità, c'è anche questo ambiente molto cupo, gotico, cupo, dark, mm-hmm, gotico, il titolo del disco che uscirà, che per l'appunto è Arcon, significa potere o sovrano in greco antico, e ha una certa rilevanza anche nello gnosticismo. Gli Arcon sono un'idea gnostica del potere esercitato attraverso un dio imperfetto, ha detto Zola Jesus in un comunicato stampa. Essi macchinano e affiaccano l'umanità, mantenendola corrotta invece di farle trovare il loro sé armonico. Sento che stiamo vivendo infatti in un'epoca arconica. Non gli darei torto, viste le vicende dell'ultimo mese più quelle degli mesi precedenti. Queste influenze negative stanno pesando estremamente su tutti noi. Siamo in un'epoca di Arcon, c'è del potere nel nominarlo. Quindi, e diciamo, molto esplicativo di tutto questo concetto, che poi appunto sarà infuso nell'album che uscirà presto e anche nel video che potete già guardare di questo pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare, Lost, girato in Cappadocia nelle caverne, perché ci sono 60, cioè caverne che sono antiche 60 milioni di anni, quindi c'è tutta questa spiritualità, questa energia, no, dal profondo della terra, che sia Zola Jesus sia il regista turco Mu Tunk volevano appunto in qualche modo visualizzare. Prossimo pezzo? Abbiamo detto tutto, stiamo andando velocissimi. Questi sono i risvolti positivi dell'ora legale della primavera, dalla luce che ancora si vede dalle finestre di Radio Onda Rossa. Energia. Siete sintonizzati, questo è Likewise, e noi andiamo col secondo pezzo in scaletta che vogliamo tenere, li vogliamo mandare tutti a 10, ci vogliamo provare di nuovo, questa è la verità. Lei si chiama Daniel Ponder e il pezzo si intitola So bellissimo. Long. Shake. Daniel Ponder, So Long, come dicevi giustamente tu, bellissimo pezzone, e diciamo ci confermiamo il nostro attingere a piene mani, la nostra passione desk. Ormai sarà che anche lo studio di Radio Onda Rossa non è gigantesco, quindi un po' questa affinità del Tiny Desk ce la sentiamo, dai. Esatto, infatti anzi cogliamo l'occasione per, se vogliamo, lanciare un Radio Onda Rossa Desk Contest, lo possiamo fare, proponetevi e vi facciamo venire a suonare qui. Sì, insomma, questa musicista è una delle musiciste che si sono esibite nel contest legato, insomma, una parte del Tiny Desk, che appunto permette a musiciste e musicisti poco noti di farsi vedere, insomma, in un contesto molto, molto accogliente, e lei ha riscosso un... Non ha vinto lei, no, non ha vinto. Ha vinto, infatti la devo andare a cercare perché non l'ho ancora ascoltata, Linda Diaz, che a questo punto ce la spizziamo, se c'è qualcosa di interessante vedrete che finirà anche lei nelle nostre scalette inesorabilmente. Comunque ha fatto quest'unico pezzo e ovviamente boom, mega successo, e quindi adesso sta scrivendo, esatto, Ale il suo album di debutto, che uscirà, si pensa, quest'estate. Secondo me con queste atmosfere che già ci sono in questa canzone non è male. Ora però le canzoni hanno anche un grande risvolto, dicevamo fuori onda, perché comunque lei non, in realtà non è il suo primo lavoro fare la cantante, esatto, nel senso che lei faceva l'avvocata in qualche, esatto, modo, adesso non so difensore, quale figura, sì, l'avvocato difensore, sì. Perché il sistema giudiziario americano è diverso, però in ogni caso faceva l'avvocata, e comunque è molto vicina alla comunità e ha anche delle situazioni, diciamo, personali della sua storia che in qualche modo la portano a scrivere anche dei testi abbastanza tosti, come quello della canzone che stiamo in realtà sentendo di sottofondo. Sì, che si chiama Pullman's Pain, e che in qualche modo è ispirato a suo fratello e alla vita di suo fratello, che ha passato 20 anni in carcere per furto. Sì. Sì, anzi lei dice che non solo suo fratello, ma anche un'altra storia di un caso che si chiama Willie Simmons, che ha rubato $9 nell'82 e ancora non è uscito. Sì, perché nel sistema giudiziario americano c'è questa roba che, insomma, in qualche modo se vieni preso due volte, tre volte, è come se fossi, diciamo, un criminale, anche se per una stronzata come può essere rubare una Coca-Cola, rubare una birra in un negozio, diventa ovviamente, se sei un marchio indelebile. Quindi le punizioni sono, cioè le punizioni del loro sistema giudiziario sono assurde, ma questo esatto, e ovviamente lei, anche se non si rallegra di questo, dice che la sua canzone Poor Man's Pain in realtà purtroppo è sempre attuale, perché appunto una volta è Willie Simmons, poi è successo George Floyd, poi Daniel Prud, quindi purtroppo da questo punto di vista lo sappiamo bene, anche alla Tenda Rossa viene spesso raccontata la situazione americana da questo punto di vista. Non è piacevole. Comunque, quindi il suo racconto, l'esperienza ci fa ricordare anche le compagne e compagni e chi ci ascolta, diciamo, perché è privato della libertà, e ovviamente il carcere è sempre male, sempre male. Odio i quadretti, come diceva un poster. E pezzo numero 3. È tanto cercata, sta girato un po' nelle nostre playlist, poi c'è finita, Jenny Ival, Years of Love. We were married on a rainy day. Isn't that how the song goes? I wore black jeans and codeine, because I wanted to make sure I seemed relaxed. It's just for contractual reasons I explained, signing the papers as if I truly believe that a contract was further from the institution than the industrial happiness complex. But in the year of love, of Love, Jenny Havel. Sì, era uno l'anno. Non erano molti. Tu volevi insomma abbondare. Allora, che dire di Jenny? Jenny, non so come si pronuncia in norvegese. Potrebbe variare leggermente la pronuncia. Beh, insomma, è un'artista consolidata. Che se non la sapete, sappiatela, è veramente. Che ha pubblicato 8 dischi. Sì, esatto. No, poi tra l'altro, in realtà, nel giro indie ha abbastanza credito, mi viene da dire. Comunque, io ho letto anche cose entusiaste all'uscita del disco, che esce per la 4AD, 8 tracce. La cosa che ci sembrava curiosa con Donna in fuori onda è che anche lei ha prodotto i dischi precedenti con la Sacred Bones di Jesus, per esempio, di Isola Jesus, che abbiamo ascoltato in apertura, quindi pensa che coincidenza. È molto particolare. Comunque, diciamo che come le sonorità spazia tantissimo. È un disco che si fa ascoltare. È sicuramente uno dei più facili della sua produzione. Sì, perché diciamo che è molto, sì, molto più pop. D'altra parte, comunque, la 4AD ha un afflato, diciamo, un po' mainstream, nel senso di comunque portare bella musica a tanto pubblico. Quindi poi il suono si pulisce tanto e in qualche modo si semplifica. Sì, nel suo caso è anche frutto di una grande ricerca. Lei comunque fa anche una ricerca da tanti anni sulla voce, quindi insomma sul lavoro della voce, sulla composizione, essendo appunto anche compositrice. Quindi insomma qualcuno, diciamo, parla della sua musica come di un dream folk o folk sperimentale. In effetti, appunto, alcuni album, se andate ad ascoltarli, sono un po' più impegnativi anche. No, ma anche questo lo è, perché devo dire che abbiamo messo quello che poi è il singolo, e quindi diciamo una delle tracce più movimentate, anche perché ci sono pezzi molto lenti, ci sono pezzi anche molto lunghi, cioè di 5 anche 8 minuti, quindi va, insomma, cioè nel senso, è vero che c'è molta sperimentazione. Perché mi stai guardando così? Assolutamente era interesse, puro interesse. Ah, ok. Sono le 19:21, questa è Radio Onda Rossa. Se state ascoltando Donna Sonica e Pinklo a Likewise, lei praticamente canta in questa canzone che vi abbiamo fatto sentire. Ci siamo sposati in un giorno di pioggia e indossavo jeans neri e codeina, credo per essere certa di sembrare rilassata. E poi alla fine della canzone pianta lì il mattone dicendo: nell'anno dell'amore ho firmato un contratto con il patriarcato. Sapete, bam! Cioè, sì, boom. Diciamo che insomma anche lei ci dà due dritte. Vabbè, ci spiace, insomma, un po' succede. Che purtroppo è un problema che ci affligge a tutte. Che cosa, il matrimonio o il farlo per una serie di ragioni? No, il patriarcato di qui sopra. Poi il matrimonio, certo, dipende, ognuno, per me è massima libertà di scelta. E se ti fa felice, perché no? E prossimo pezzo, cambiamo genere: Fan Club Wallet, Great Timing. Someone that hates me, so I'll just spend all of my time with myself. I don't need anybody else's help. Is it that easy for you to see through me now that I've gone and shown myself? On your part, nice to hit. Funk Club Wallet, Great Timing. E diciamo, io scelgo in ogni nostra playlist un pezzo, diciamo, di questo genere per farmi prendere in giro da Pinklo. No, vabbè, dai, tutto sommato lei neanche troppo shoegaze, dream pop. No, dai, lei mi sembra più quel dream pop elettronico caruccio. E lei è giovanissima, 22enne. Il suo disco di debutto non è ancora uscito. Oh, vi stiamo sfornando, cioè proprio anteprime a go-go. È uscito il 5 marzo questo singolo. Sì, e invece il disco uscirà il 20 di maggio. Il suo nome d'arte è Funk Lab Wallet, lei si chiama in realtà Annan Jude. E caruccia, dai, ha imparato a suonare la chitarra e l'ukulele. In realtà la sua prima passione erano disegnare i fumetti, però poi a un certo punto ha detto: ah, ma a me tutto quello che devo dire non mi entra nel fumetto. Boh, non so perché. Ha pensato che chitarra. Esatto, forse ha pensato che invece gli entrava. A proposito di fumetti, possiamo salutare la nostra grafica, la grafica di Likewise. Se state apprezzando la nostra grafica che vedete un po' sui social network e su sito di Radio Onda Rossa, dove mettiamo i podcast delle puntate, la salutiamo tantissimo, la ringraziamo sempre, grazie. Non stiamo evitando di dire il suo nome. No, non stiamo evitando, che non sappiamo con quale nome d'arte vuole essere nominata, quindi poi a un certo punto, quando lo scopriremo, vi diremo anche quello. Possiamo lanciare un contest come si chiama secondo voi l'artista, vabbè, dietro. Ma no, perché chi ci ascolta qualcuno lo sa e quindi potrebbe barare, lo sappiamo già. E allora io ho perso un'altra volta, questa è la seconda volta in 17 puntate, i miei appuntini, quindi non ho nessuna. Non sono io che faccio dei riti voodoo, giuro. Di quelle che ho raccolto durante la settimana. Per prendere il set in pagella, no, non sono io. Allora, lei comunque ha iniziato a pubblicare su Bandcamp, che è uno dei siti che Dona consulta dalla mattina alla sera. Sì, a proposito, mi ha fatto venire in mente questa cosa su Bandcamp, giusto perché poi queste cose magari poi si discute, si parla, eccetera. Noi ne parliamo perché fino adesso Bandcamp è stato acquisito dalla Epic Games, quindi insomma è stato preso da, insomma, una major che fa essenzialmente videogiochi, però la realtà dei fatti è che per adesso tutto funziona ancora molto bene, e lo so per certo, nel senso che le artiste e gli artisti che sono su questa piattaforma continuano, diciamo, a prendere i soldi che devono prendere, quindi per il momento non è cambiato ancora niente, nonostante in qualche modo c'è stato un passaggio di consegna e di proprietà, diciamo. L'album di debutto che uscirà ha un titolo lunghissimo, You Have Got to Be Kidding Me, perché mi odiano con l'inglese, questa è la verità, quindi fanno dei titoli sempre lunghissimi per farmi sudare freddo ogni volta che me li devo dire. E vabbè, parlerà insomma delle tribolazioni di essere giovani, abbiamo detto lei ha 22 anni, la complessità del crescere, tra l'altro la sua, insomma, lotta, convivenza con una malattia, e vabbè, dai. Aspettiamo che esce il disco e così ci lo riascolteremo insieme. Esatto. Prossimo pezzo? Sì. Sei pronta? Vai. System, l'artista che vi facciamo ascoltare, si chiama Sevda Lisa. It's gone. You're dead to me. We're done. And I'm too sensitive to be your pedestal. To be your pedestal. I'll always remember the pearls in your eyes. I'll always remember you made me feel alive. I'll too sensitive to be your pedestal. And I'm too sensitive to be your pedestal. Con questo lungo finale System e il pezzo di Sevda Lisa che vi avevamo fatto ascoltare, lei si chiama Sevda Alizade, è un'artista praticamente completa, nel senso che fa tutto, compone, suona, produce, è un'artista visuale, tra l'altro sì. In questo, per questo EP sono usciti anche cercate la copertina perché è molto interessante, molto particolare, c'è tutto uno studio diciamo visuale degli album, che sia un EP o che sia un album vero e proprio che propone. È un artista iraniano olandese, nata a Teheran e diciamo scappata con i genitori durante appunto la diaspora degli anni 80 praticamente in Olanda, dove appunto è cresciuta e lavora. Il suo disco d'esordio è del 2017, per il momento ne ha pubblicati due, si chiama Eason, il secondo invece è il successivo del 2020 e si chiama Shabrang, quindi se volete ascoltare altre cose, oltre insomma a questo EP che ovviamente non ha tantissime tracce, potete cercare i dischi precedenti. Il primo disco era dedicato alla maternità, al rapporto con la propria madre, mentre il secondo lei ha dichiarato che era una lettera d'amore a se stessa. Che mi sembra ottimo, infatti, una delle migliori che si possano scrivere. Esatto. Questo pezzo è tratto dal suo ultimo EP uscito lo scorso febbraio, che si chiama Raving Dahlia, quindi insomma potete anche mettervi questo EP e in qualche modo entrare a diciamo conoscere quest'artista. Belle sonorità, molto trip hop ovviamente, di solito come ci stavamo dicendo nel fuori onda scrive e canta in inglese, ma ha anche realizzato una canzone in farsi che si chiama Babin qualche anno fa e l'ha realizzata insomma per protesta contro l'ordine esecutivo 13.769 firmato da Trump, che bandiva praticamente alcuni paesi tra cui la Siria come paesi terroristi e in qualche modo bloccava tutte le richieste di asilo politico dei rifugiati e sospendeva, cosa terribile, moltissime diciamo documenti, moltissime visa che erano state già concesse. Yes. 19.35, questo è Likewise, siete su Radio Onda Rossa, pezzo numero 6, così forse davvero riusciamo a essere puntuali in scaletta, si intitola Anti-Glory. Loro sono Osgirl e questo è il mio album della settimana. Se pareva. Glory, l'hai subito intuito che perché era il mio album della settimana, insomma. Vabbè, non però fa uscito, piacere però. Sempre sentire le chitarre, non, comunque sentiamo tante sonorità molto, molto hip hop, molto rhythm and blues, molte cose particolari, però anche molto folk, new folk, country. Quando si un po' di sano indie rock, quando si ritrova fa sempre piacere, devo dire, cioè. Poi mi sembrano molto carine loro tre, Horse Girls di Chicago. L'album si chiamerà Versions of Modern Performance, uscirà il 3 giugno per la Matador. Loro sono tre fantastiche, chitarra, basso e batteria, veramente fantastiche. Guardate il video che è uscito, che sono veramente, fanno, secondo me fanno spaccare, perché sono veramente dentro la loro musica hanno secondo me una maturità musicale incredibile, perché questo pezzo è veramente suonato bene, scritto bene, insomma non sempre succede con i lavori di giovanissime così, che sono molto interessanti, molto, però anche acerbi, certo. Invece c'è grandissima maturità in questo pezzo. Beh, non è un caso che la Matador le abbia scritturate dopo l'uscita di due EP con cui si sono fatte conoscere. Loro sono comunque Nora Chang, Penelope Longstein e Gigi Riss, pensiamo così. Saranno anche in tour, diciamo, nei prossimi mesi. Tra l'altro toccheranno un sacco di città europee. Purtroppo per il momento nessuna italiana. Speriamo, insomma, che vi capiti e che ci capiti di andarla a vedere da qualche Noi parte. Noi siamo alla periferia dell'impero qua ormai. Esatto. Nel novembre abbiamo scritto... Avrei detto il culo, però vabbè. Abbiamo scritto Antiglori quasi per caso, come ovviamente le migliori cose che si sa accadono un po' così. Stavano giocando con una vecchia canzone durante le prove e quindi la canzone poi gli si è palesata invece davanti nuova ed è andata così. L'hanno dedicata a questa cosa, mi ha fatto ridere come sempre. Questa canzone e l'album sono per Chicago, i nostri amici, le band dei nostri amici, tutti quelli che sanno suonare la chitarra e tutti quelli che non la sanno suonare, grazie anch'io. E infatti nel video che è molto carino, appunto, cioè non mi ricordo se è quello di Antiglori, forse è Billy in realtà il video in cui ci sono anche tutti gli amichetti e le amichette che vengono a ballare in una casa, quindi insomma è molto, anche molto familiare, molto molto reale, molto vero. Yes. E 19:41, io passerei al pezzo numero 7. Cambiamo. Posso dire una cosa prima di passare, certo, alla prossima? Cioè che stasera vi stiamo facendo ascoltare poco i lati B, queste le nostre B-side. Sì, ma vi ricordiamo che esiste una playlist delle B-side, quindi che potrebbe magari piacervi di più in un certo senso. Quindi andate su Onda Rossa e a un certo punto troverete anche la B-side. Yes, yes, yes, yes. Vai col prossimo. Tom Berlin. Tap. Pensavi che non ero preparato. Singing like larks, they go ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, wondering about my health. Always wondering if I'll go to hell. Should take some vitamins, I don't know what to take. And I should sleep more, but I'm always wide awake. Fine, Tom Berlin, singolo tratto dall'album che uscirà fra poco, il 29 aprile. Sì, fra un mese esatto. Si intitolerà I Don't Know Who Needs to Hear This, che significa non so chi ha bisogno di ascoltare questo. Puntini, puntini, puntini. Tra lei dice, io ho fatto, sta là, fate voi. Sì. Lei si chiama Sara Beth Tomberlin e mi piaceva mettere in playlist questa canzone. È un folk comunque in qualche modo abbastanza contemporaneo, ricorda un po', se volete, Bethorton, però forse più minimale e ha anche un timbro di voce un po' più alto. Si ricorda Echi ovviamente di Joni Mitchell, ma anche perché ogni volta che sentiamo un folk con questa voce diciamo pulita ci viene subito in mente lei, anche se poi lei ha fatto miliardi di altre cose, e ma le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori mi auguro che lo sappiano. Non li picchiamo. E parlavamo nel fuori onda che abbiamo messo due artiste che anche loro, entrambe diciamo, vengono da famiglia molto religiosa in modi completamente diversi. Nel caso di Tomberlin invece viene, che viene da una famiglia religiosa strettissima, nella quale non poteva ascoltare un certo tipo di musica, non poteva leggere un certo tipo di cose, quindi insomma con una vita abbastanza come posso dire, costretta, permeata, chiusa diciamo all'esterno, a un certo punto ha sentito il bisogno di portare fuori in realtà le canzoni che aveva già, che scriveva già da tanti anni in qualche modo. E si sente questo desiderio di suonare, di fare musica, e quindi aspettiamo l'album in uscita. Lei comunque non ha pubblicato tantissimo fino adesso, questo che uscirà sarà il suo secondo disco, quindi comunque un'artista giovane. Tutta da scoprire e tutta da farsi. Esce per la Saddle Creek, che è una grande etichetta soprattutto per tutto quello che è il panorama folk, new folk, e quindi insomma noi aspettiamo con piacere di ascoltare. Sono le 19:48, questa è Likewise, e noi adesso ascoltiamo Stella, non mi guarda così, Stella with Sigma, perché si scrive con la sigma greca, perché lei è greca, col terzo disco in arrivo che sarà il primo per la Sub Pop, quindi direi già queste cose dovrebbero incuriosirvi parecchio. Il pezzo si intitola Charmed. You Stella con il pezzo Charmed, che probabilmente sarà anche l'album, il titolo, ma non lo sappiamo ancora, del prossimo album che, come dicevi, uscirà per la Sub Pop. Curiosa come cosa. Che cosa? Che la Sub Pop abbia scritturato Stella con la Sigma. Stella con la Sigma. Ma no, no, non è curiosa perché insomma la Sub Pop, soprattutto negli ultimi anni, ha allargato anche, diciamo, il range di tipo di musica. Lei fa un elettropop abbastanza vario, in realtà, molto interessante. Un paio di album all'attivo, viene da Atene, si chiama, volevi dirlo tu perché no, tu ci tieni con... non è vero. Si chiama Stella Cronopulo, anzi Cronopulu, e è una multistrumentista, insomma, una che fondamentalmente anche lei viene dalle scuole d'arte, quindi insomma con un, diciamo, un percorso di studi che in qualche modo l'hanno portata a questo, e sì, insomma, molto interessante. A me piacciono molto le sue sonorità, molto semplici, devo dire. Sì, sì, molto anche fine anni 70, disco pop, new wave. Andatevi a cercare gli altri suoi due lavori che sono già usciti. È passato un po' di tempo, devo dire, perché il suo album di debutto è uscito nel 2015, mentre il secondo disco è uscito nel 2017, quindi sono ben 5 anni che non pubblica un disco, quindi da sola, perché in realtà poi ha due, fa, diciamo, fa parte di due band, quindi insomma in qualche modo ha tanti vari progetti, e quelli insomma solisti sono insomma sono un po' quello più, quello in cui si esprime particolarmente intensamente, sì, un sacco, ma anche un sacco di synth anni 80, anni questi 80, giochi, sì, insomma con i suoni molto anni 80 che secondo me ci stanno. Sono arrivate note cose città, accidenti. Eccoli, ho visto anch'io. Dal di là del vetro. Quindi sappiamo che manca poco. Manca poco. Sono 19:53, manca poco. Ma noi siamo quasi, siamo puntualissime. Siamo puntualissime. Prossimo, cambiamo genere, prossimo cambiamo pezzo, nazione, sì, continente, anzi. Continente e anche stile. Homo Sangaré, Vassul Don. Jagbawara donge, kadonge, kakuku donge, don't get Kamare ngwani don't get Nindi alene ye wasulunga yini wadalene ma tulunde wo Nindi alene Wasulu Don Omo Sangare. Allora, che dire? È un artista che viene dal Mali. No, super viene, artista che è venuta anni fa dal Mali. No, in realtà sta in Mali, non è venuta. Sì, siamo noi che la conosciamo e non so quante dei nostri ascoltatori e ascoltatrici invece la conoscono, e quindi ci faceva molto piacere metterla in vista dell'uscita del suo nuovo disco, anche questo fra un mesetto, il 29 di aprile. E lei appunto ha una, già una lunga carriera, avrà già inciso tipo 8 dischi mi sembra, se non sbaglio, adesso non li ho segnati. Beh, il suo primo è del 1990, quindi insomma tanti anni, sì, tante collaborazioni, tanti tour, ma soprattutto una persona molto presente, a parte che è stata ambasciatrice di varie situazioni, però sempre si è battuta sempre per i diritti delle donne, per fare informazione contro i matrimoni combinati, la poligamia, tutta una serie di questioni. E il pezzo che avete ascoltato, che usciva in occasione della, diciamo, dell'8 marzo, e dal pezzo veniva fuori anche un video girato insieme a un artista, una videomaker berlinese, si chiama Justina Obasi, che è a base a Berlino, e nel quale appunto ci sono in qualche modo tutte queste anche figure di donna che vogliono essere celebrate. Ci siamo. Manca pochissimo, al volo, l'ultimo pezzo. Esatto, via velocissimi. Beethoven, Fugazi. speechless. Beethoven, Fugazi, devo dire bellissimo questo EP di 6 pezzi di questa musicista che si chiama Maya Bond, appunto, che poi pubblica con il nome di Beethoven di Portland. Tu dicevi una cosa interessante sul che vuoi dire al volo? No, che lei parlando di questo EP dice che insomma per il concetto che c'è dietro questo EP nasce da una domanda, dice in definitiva cosa succederebbe se invece di lottare costantemente contro le maree inamovibili di cose irrecuperabili, relazioni rotte, futuro che si erode ogni giorno di fronte al cambiamento climatico eccetera eccetera, si desse il permesso di smettere di lottare del tutto. Quale bellezza potrebbe raggiungere la vita se la scelta di rinunciare a diventare affondata, tra virgolette, che sarà il titolo del disco, mi sa anche Sunk, sì, Sunk, fosse riformulata come un atto di autocura piuttosto che una sconfitta? È una domanda che lancia, quindi ha detto non è che questa è la soluzione, dice ma che succederebbe se facessimo questo piuttosto che combattere sempre anche contro i mulini a vento, forse? Boh, no, cogliamo come invito alla riflessione, perché questo pezzo era molto riflessivo. Molto morbido, molto morbido, molto intenso, sì, sì, molto quindi, insomma, intenso. Ci piaceva concludere così questa sera, questa 17ª puntata. 17ª puntata, facendo le corna, perché non so, siamo su superstiziose, no, non è vero. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, messaggini, facendoci sapere che ci stavano ascoltando in diretta, grazie. E vi ricordiamo assolutamente che se volete continuare ad ascoltare Likewise e tutte le altre trasmissioni di Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, ci dovete dare i sordi, radio abbonamento, aprite il sito di Radio Onda Rossa, troverete un home page, un sostieni Radio Onda Rossa. È inutile che dite no, io non so, non io lo non trovo, lo vedo, no, guarda, sta proprio là, spiaccicato in avete in mille modi per farlo, ultimo passare da Radio Onda Rossa e proprio lasciarli proprio, okay, depositarli proprio fisicamente. Ma siccome adesso c'è attiva la campagna 30 per 1000 su Produzioni dal Basso, andate sul sito, cercate la campagna, sottoscrivete per Radio Onda Rossa, esatto, che non ha pubblicità, non ha padroni, non ha sponsor, e quello sapete, insomma, dai, ma un programma che sta per arrivare, e cioè a note cose città, sono le 20:06, già ci guardano di là del vetro, ci hanno anche guardato male per dire per la serie, ve ne andate, che sì o no? 20:06, Likewise. Likewise chiude, Sampa the Great non l'abbiamo neanche nominata, ma le nostre fedeli lo sanno, però era lì di sottofondo. Vabbè, insomma, buona serata a tutti e ci vediamo martedì prossimo. Ciao! Ciao!